America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. All right, you heard the news right here. The Secretary of State of Kentucky, she declared the unofficial winner in Kentucky. Hillary Clinton, she says Hillary Clinton has beaten Bernie Sanders. Martedì, giornata di primarie, questa volta in Kentucky e in Oregon per i democratici, soltanto in Oregon per i repubblicani. E devo dire che, insomma, per Hillary Clinton le cose continuano a non brillare, perché Bernie Sanders ha conquistato l'Oregon ed è riuscito ad ottenere un pareggio in Kentucky. Non che la cosa cambi il risultato finale, di fatto Hillary Clinton si trova vicinissima anche lei al numero di delegati sufficienti per vincere formalmente la nomination, però il fatto che continui a non vincere dappertutto, a non convincere l'elettorato, beh, devo dire, è preoccupante guardando a quello che sarà lo scontro a novembre contro Donald Trump, il quale ha vinto ieri naturalmente l'Oregon, visto che corre da solo. Questo il quadro politico, ne parleremo nei prossimi giorni. Oggi voglio invece parlare d'altro. Africa. Beh, siamo in atmosfera africana. Perché? Beh, perché devo dire, il continente africano è da sempre per l'Italia un punto di riferimento chiave sul piano economico, su quello della sicurezza, come sappiamo, per la gestione dei flussi immigratori, e da tempo abbiamo cercato di costruire attorno a queste sfide un dialogo serrato con l'Africa, sia sul piano strategico che su quello tattico. Però devo dire che l'Italia, beh, se per questo anche l'Europa, Italia e Europa, si sono mossi in ordine sparso, senza un progetto articolato, e dunque, così facendo, che è successo? Beh, hanno ceduto terreno, ad esempio a Cina e Stati Uniti, nei confronti del contesto regionale africano, appunto, che sul piano geografico e storico, beh, è un nostro interlocutore naturale. Da oggi tutto questo cambia nell'interesse stesso dell'Africa, come mi ha detto in un'intervista esclusiva Nkosazana Dlamini-Zuma, la prima donna alla guida dell'Unione Africana, forse oggi la più autorevole figura politica e morale per il continente, sia per il suo ruolo attuale che per il suo passato al fianco di Nelson Mandela nella lotta contro l'apartheid e poi in vari governi sudafricani, dove è stata ministro degli esteri, ministro della sanità, proprio nel primo governo Mandela, ministro degli interni. Ecco, la Zuma oggi è a Roma per partecipare ai lavori in cui si formalizzerà un nuovo canale per il dialogo fra Italia e Africa, perché c'è stata a Roma, è partita questa mattina a Roma, la prima conferenza ministeriale Italia-Africa. E devo dire, credo, meno da quel che ho sentito, da quel che ho visto, che si tratti della svolta che si cercava da tempo. Madame Zuma, lei è a Roma per la prima conferenza ministeriale Italia-Africa, ci sono oltre 40 ministri di altrettanti paesi africani, i loro rappresentanti permanenti alle Nazioni Unite, i responsabili di una quindicina tra organizzazioni internazionali e quelle del sistema delle Nazioni Unite, regionali. Insomma, a questo punto, secondo lei, l'Italia può diventare un punto di riferimento nel dialogo complessivo fra l'Africa e l'Unione Europea? Penso che l'Italia possa essere un ponte tra l'Africa e l'Unione Europea. Ha una maggiore conoscenza delle problematiche africane perché le vive in prima persona, come avviene con l'immigrazione, perché è il nostro vicino più prossimo nel Mediterraneo e con l'Africa ha una storia di lunga data. Ecco, come sa, noi abbiamo molti migranti che raggiungono le nostre coste dall'Africa, soprattutto attraverso la Libia, e dunque come possiamo immaginare di risolvere questo problema che resta gravissimo? Attraverso, per esempio, lo sviluppo sostenibile dei paesi da cui gli immigrati scappano, attraverso la creazione di piccole imprese, infrastrutture, insomma, che ruolo gioca l'economia? Yes, Mario, Africa, as you know, has a very big but young population. Certamente, l'Africa ha una popolazione numerosa e soprattutto giovane. Dobbiamo investire nell'istruzione e nello sviluppo di competenze specializzate, ma anche in corsi di formazione professionale. Per esempio, se noi riuscissimo a valorizzare le nostre risorse naturali e minerali del 50%, potremmo creare ben 7 milioni di posti di lavoro ogni anno. Poi gli africani, come tutti i popoli, potranno scegliere di emigrare, come succede dappertutto. La cosa importante è che lo facciano per scelta, portando il loro contributo alle economie dei paesi in cui si spostano. Oggi è la disperazione che li spinge ad andarsene. Ecco, c'è il problema, naturalmente, sicurezza e terrorismo. Qual è la sua posizione in materia di sicurezza, in particolare in relazione alla Libia? Well, my view is that the fight against terrorism has to be looked at. Credo che il tema del terrorismo vada affrontato con una prospettiva più ampia. Non possiamo relegare la questione all'aspetto militare. Innanzitutto dobbiamo rendere più forti le istituzioni locali affinché siano in grado di erogare alla popolazione i servizi fondamentali. Devono poi avere attività economiche inclusive, evitando che alcuni gruppi vengano marginalizzati. Dobbiamo inoltre incentivare la partecipazione democratica, così che ogni fazione possa sentirsi parte del sistema politico. Così che, quando ci sia una scelta da fare tra le istituzioni e i gruppi estremisti, loro rispondano ai primi. Affrontare la questione da un punto di vista esclusivamente militare genererebbe dei problemi. Per la Libia vale lo stesso principio. La soluzione deve essere di tipo inclusivo, altrimenti non penso che risolveremo i problemi libici. Ecco, in conclusione, ci dica come vede il futuro, come lo immagina. Ci lascia con una visione ottimista o pessimista? My take is... Sono ottimista. Se si guarda al continente nel suo complesso, ci sono meno stati instabili. Nei paesi dove persistono situazioni di conflitto è però molto difficile promuovere lo sviluppo economico. Pace e sviluppo. Dobbiamo guardare a questi aspetti come a due facce di una stessa medaglia. Vediamo molte potenzialità di crescita per i giovani e le donne, specialmente guardando all'Agenda 2063 per il continente, in linea con lo sviluppo sostenibile che abbiamo intrapreso. E allora, insieme, mettiamo i giovani e le donne nella condizione di guidare questo cambiamento. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americanradio4.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Madame Zuma è sempre con me, microfono America 24. Allora, ci può aiutare, Madame, a trovare una canzone per i nostri ascoltatori? Propongo Graceland. Paul Simon, Graceland, canzone meravigliosa, tra l'altro registrata, eseguita in Sudafrica con musicisti sudafricani. Direi che non potrebbe esserci una canzone più simbolica di questa per il grande rinascimento che ha davanti a sé l'Africa. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. Following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. Tell me she's gone. As if I didn't know that. As if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.